5 di mattina, e così che puoi dare tipo la conferma di poi. Di poi abbiamo sentito, ma te l'ho sentito, Addirittura, ehi l'anima. No, io rimango in ascolto stamattina così presto perché ho per ovvi motivi, perché c'è un ascolto. Se parlo io si sveglia tutto il vigilato. Due patatini, cambio. No, quello non era il pollo che era andato a mangiare due patatine, quello era... Perché il pa... Vai su, vai su. Sono mangiato di una piantagione. Non lo so con di è, ma è... non è vive, no. Ce lo faccio qua, ce lo faccio con, come si dice, con qualcosa di buono sotto, là sì, con la roba delle balle, ma non mi interessa, a parte qua che è tempo sprecato, luce sprecata, io la sprecata luce non le spreco per queste coglionate, capito, non mi interessa, tu lì. Poi, se c'è qualcuno che mi piace sprecare luce, ma non me ne frega niente, la sprechi, io non le spreco luce, già la sto sprecando adesso. Anche se consuma poco, la giudico tutto, allora mi dà non mi va, è già tardi per me, non voglio mai rimanere la macchina a quest'ora. Ma c'è problemi, Luca? Ah? C'è problemi? Problemi io? Roger, c'è problemi, la sua vera pete cazzo, ma io il problema c'è risolvo. Ma, professor, io vado, torniamo a Monte Grappa numero 3. Luca, Monte Grappa numero 3. Grazie. Non ne ho. Capito? Questo mi sto dicendo che sprecando, corrente con mia, dimmi come ti fai la compagnia. Comunque. E me, dai, e io. Ora sono bene, sto arrivando, vai. Non ci sono problemi da parte mia. Ti vado la sua casa, non c'è problema. Arriva, arriva. Guarda che non sono grave di tu, non c'è bisogno di girare via, non sono grave, c'è già venuta anche a casa tua, se ricordi bene, fai memoria, sono venuta a casa tua, non ho problemi, lo sai, a me non mi interessa, capito? Fai quello che vuoi, io sono a casa, ciao. Ciao, vengo, ecco che abbiamo, vieni, sono a casa, vieni. Si volta ma non sono bravo. Cos'era il tuo buffone? Ma cagare male. No, sei cagato. Ah, sei cagato. Che ti dà faccia che se la miglia tua mo se ne disgrascia. Ma va, caga vai. No, ma se ne ha cagato. Ma se ne tu, sta 27 non ho preso un cazzo. Urlo, muro, è cagato da me, da uno però. No, se non sai che tu hai la pelle, se tu sei 27, mamma, se non preso un cazzo. E tu sei ribelle, non era più tu in questo, se devo vendere la ciappa. Non è problema, non ha, non è se fare amico di 27, no, cazzo, la ciappa di 27, 20 chimbe, no, cazzo. Solo se... problema non mi tappo. Ma com'è un problema, mi tappo? Se devo mandare questa cannuccia, se devo con questa tua pagalmente, che io vedo. Questa è una droga, cazzo. E se non c'è che tu, vabbè, che se mi sei via con Rosu, questo non lo posso, non lo posso ammettere, cazzo, ma che è? Ma è colpa mia che mi sono due, è bagassa. Vuoi dire mamma tua, non è bagassa, è potere tua. E io sempre lo sa con un caro che la da, che non che la mamma, cazzo. Non so, in termini ha fatto, cazzo. Io faccio sempre una cosa, io sono finito, ma è che decide, e non la so andare in te, e lui dice, che mi rimasta, come un cazzo, ha poi mangiato un po' come la segnale, cazzo, non faccia più, cazzo, sono arrivato al cazzo che tu, cazzo, bottone silenzio, cazzo. Vai da come, cazzo! Vai da come! Cosa l'ho parlato di tutto, cazzo? Butto un cilindro e si è corruto pure, cazzo! Massaggio! Cazzo! E tu la stessa cosa, cazzo, non te lo posso fare, cazzo! No? Ma non fai da più, se mi sei necessario, cazzo! E se vuoi se lo so come, dai, io sono in macchina. Cazzo, cazzo, mi piace, io sono dronione, cazzo. Io ho fatto che sono dronione, cazzo, senza che lo vedi, cazzo. Io, che vuoi, permetta, cazzo, pure che vale il corso, come sto parlando? Sinceramente, non c'è detto... Falchetto. Avanti, che palla, guarda, non più avanti. Allora, muoio, andiamo avanti. E va. Va. Arime. Arime scossas. Appreciata. Nessuno mi gemella, prima vista che va in una cappella di una gemella. Bello. Allora, vorrei entrare avanti, buonasera, avanti, mentre non si conosce. Dai, avanti, che vuole entrare, avanti, che è tu lì, al buono, non so. Avanti, binario 21, non è di nessuno, cazzo. Come si vede che è un canale di bastardi, il 21 è un canale di bastardi, giuro, è duro, cavolava. Ai, quanto sei bello, Gianni la Fiorò. Ah, hai visto mai, quella smoglia la faceva sempre la sua moglie. Quando faceva la doppia prestazione, a culo. Non so, non problemi. apri due. Vai, cazzo. Comunque, cazzo, soffiami le palle, cazzo. Quando c'è il tempo, cazzo, vai giù. Vai. Guarda, è proprio... Non ti offendo. Ti parlo da uomo, non ti offendo. Non ti offendo. Fai da bravo, è di cortesia. Tony! Apri due. Canale 1, canale 1. Tonino, canale 1, cazzo. Sulla parabola, sulla L519. 5 euro l'una. Lo vorrei che se lo paga, ma è una battrice, è un salto che portavo, no? Non ho capito, vedete se la vedete, la panni uno, non te lo so, sarà. Al bar, la mano, dai, io il canale 1, va. Dove, ragazzi? nella prossima vita che non si avete mai, però non è a vederla come ha telefonato gatto a certe persone gatto che non conosce gatto, ma come fai? Non risponde, non parli, oppure cosa, andiamo, cerchiamo delle persone così a intervallo sulla cassetta, non è bello, non è bello cercare di trovare. Correme da parte mia, correti da parte mia, correo cose pure che però te la in culo, perché a me non mi interessa un cazzo. Un saluto mobile a tutti, belli e brutti, un saluto bene, capite? Dei cugioni e bastardi, bastardi e bastaglioni, ma che rompete i coglioni, un saluto di Billy. Ma io guarda a merda, canale 1 siamo. No, vai gatto, non sei un tipo di competere con mia, non mi sei, gatto, non ti voglio parlare. E noi siamo al canale 1, se vuoi venire, va già. Ma io sul canale 1 non posso venire perché non ce l'ho, capito? A me mi compare, ma su, mi guarda, a te che ti posso trovare, 123 quanti? 123? 427. E ridi, Morino. Come si vede che sei un bastardo? Guarda, di qua. Sì, più. Non c'è più. Dai, qua. Thank you. signore. Sembrava un volo di alternata. Sarà la limitatore. Come? Sarà dalla limitatore. Prova a controllare la limitatore. Guarda così. No, no, sempre c'è. C'è il radio, non c'hai. Gliela mangia la fermata. Ma è una persona già, che va a morire la Sardegna Bianca, adesso sembra più tranquillo, però lasciamo la Sardegna Bianca, ma se c'è qualcosa di sotto. Leggero, leggero, si sente, si sente sempre, leggerissima, ma si sente. Sì, ma vuole l'antenna collegata per forza qua, se no non funziona. KP2. Ascolta, chiama nello schema dell'Arbus se ce l'hai. Thank you. certi pezzi e... io ti do l'indirizzo. E come, non è bravo, non è niente con questa roba. L'L519. A 25 euro l'ora è originale. Gianni, capri tuo, ascolti a mia, non ascoltare certa gente, cazzo, che si sentono di sapere le cose che non sanno. E per quello ci sono 25 anni, Gianni, capri tuo, se mi ascolti a mia, cambio l'asso. Gama. Prete, prete. E io ho 30. Lo so io. Ne ho ancora due, il capogama ne ho due. Anzi, ne ho tre. Il capogama ne ho tre. Vedi, sono tre in fila, cazzo, mi basta una. E faccio un corso. Mi stavo dicendo che stavate parlando, ce n'è qua le tavole. Io ho le valvole qua, l'L509, ne ho le valvole l'L519, qualche uno che si sente proprio di valvole, mi serviva la frequenza, e la potenza e la resistenza di quella, della valvola, dalla L509 alla L509. Come sei un barattolo, si vede che sei un barattolo, guarda. Gianni! Non posso. Io ho parlato dall'aereo 509 all'aereo 519. C'è tipo di resistenza e tipo di cose, capito? Come stavi dicendo tu. Perché le valvole, che sono le L509, e lo bravo, le 519, che hanno lo stesso parametro di quanto, però le 519 hanno più potenza. Più potenza, più resistenza e più corsa. Lo stesso il corso, l'impatto e tutto quanto. Adesso se tu hai avuto, perché io l'ho avuto, io l'ho avuto, ho avuto quelle di nelle 509, ho avuto nelle 519. Da parte mia, come resistenza e come potenza, nelle 519 sono bestiali. Ehi Antoni, non lo metti in dubbio, sono per dire, le 509 ti danno magari 800 watt, 900 watt, invece le 519 ti danno 1000 watt, lo so quello lì, però adesso li hanno fatti i cambi diversi, capito? Le hanno fatte diverse, quindi bisognerebbe modificarli tutto quanto il circuito lì, siccome chiedi al campi 2, l'hanno gliela detto il tecnico quando ha chiamato. Ma non mi controllate di uno, se ne esistono ancora! No, visto, non dobbiamo, non ti picchiamo niente, perché io, quando ci avevo un coso, una barricata da un chilo, ma montavo le tavole, le 519, e non dovevo montare nessun coso, perché i cosi sono... Perché, guarda, la tavola c'è un guaio, presente. Io qua, io 4, c'ho la L 509 e l'L 519, certo, non ci sono cose, mi ricordo, e mi ricordo di una cosa, le valvole, della strategia quando l'ho fatta accostare io, ancora non ti sentivo a te io, e mi dicevano che per 60 euro più IVA, la cosa dall'Alta Toscana già, le pagavo 25 euro l'uno. Io voglio sentire questo viso, ma non la rossa, una bagassa che io se chierio. Che riese, cazzo, hai capito? Vivia che me da, ma che ti devo moccare? Vabbè, che io vedo. La natura tua, alcuni non ci sono affatto, male, che non le gambe tu, che non riesce a fare usato. Io, come che ne so ancora. Le sue spezie tua, non ancora, non ancora. Una, io la mente della mancavo, a mettere una cosa che mi ancora un uomo a prendere. Penso che mantenere, proprio più bene. Ma poi, se ne manca corso, ti manca prosa bene. Parla italiano. Non la prova poesia. In poesia come credi? A vedere, che mi hai detto, parla anche in italiano. Fate credere. Ho capito. No, fate credere. Ma io ciuccio. Visto vai giù, male, mi dà per abito, visto che non sa pittura, non sa pittura, se non è una che mi dice che sono più male, tutto il mondo è più male, si mi dà, tutto il mondo è più male, tutto il mondo è più male, tutto il mondo è più male, tutto il mondo è più male, tutto il mondo è più male, Sasha, ragazzi. 400, 520, 420. Se tu che non fate più, non lo penso. Adesso visto vai, sono contento. Anch'io. Allora ragazzi, che avventura, vai. Bravo, c'è la playa. Visto vai, come se vede l'uomo corrotto. Santiago 5 a Santiago, ma ti vuole andare? Giallo io. Prende un 150. Senti come... Dove apri? Io vengo e ci... Ti trovo. Poi ti chiami di cognome. A te non preoccuparti con noi, ma c'è un vestito giallo. C'è un vestito giallo. Vengo, dimmi dove sei, io vengo e ti trovo. Mi ha quasi quasi non lo cucuavo, segua. No, io voglio trovare casa con noi, ma il numero di cucumai... Quindi il famoso che cazzo che ti attreccia. Ah, imbecille, vai, ma cosa stai dicendo? Scandisci bene le parole, dove ti becco io a te? Dimmi, dove ti becco a te? Ma mi vuoi beccare, abbiamo te grappa numero 5. Prima la numero 3, la numero 5. Cazzo, ti ho detto, abbiamo te grappa numero 5. Parlare sul microfono sento il microfono, bello parlare. Santo, bello a trovare. Ha fatto. Ho parlato, allora. Mi sono andato. Non ci sono prima colazione. Gesù, Marco. Dio, ma quanto è che io sono con la sorella? Gesù, Ale. Ma io sono, tu non sei una cazzo di re di voglia, ne esci tu, Gesù, Marco. Grazie. buongiorno. Ma si intende il microbo, come dice lui? Non ho capito, non ti lascio parlare. Andate per l'altra parte, ragà, perché intanto lui, ogni volta che entra lo secco. Non fa niente, lui. Tu non muovi di più adesso. Se non stai zitto ti faccio scoppiare quel cazzo di cosa in bocca, te lo faccio scoppiare. E se ti sgamo dove ti becco, ti riculo a capo. Sì, sì, ma io... Non ci sono problemi, a trovarlo, no? 4.600, sono trovato amici che non... Non ho la coraggio di arrivare a Coso qua, via Montagnacco numero 5. Però cosa sono? Adesso questo è l'ultima speranza che ci ho fatto, che mi stanno lasciando proprio i coglioni. Capito? A posto, lo so bene, cazzo, che io ti sono fatto, io a casa 6 minuti, cazzo, e l'ho trovato. Però, non c'è niente, al proprio sono... Sono che dovevo dare, sono un consiglio che apre più col cazzo, quando... Per il mio ascolto, Gianni! Se loro mi dicono dove sono, poi ascendo io, è una porta fissa, la posso anche mettere, capito? Ma 150, 15 euro, no, non ho anche 15 euro, e 1,50 euro. Sui 120 fino ancora un coraggio, un vestito giallo bello, su giù che di nuovo da palla che ha fatto le bitti nella lampetta, Yeah. che cazzalo. Io quando avevo l'ampli piccatore da un chilo va pagato, che io avevo voluto lo farlo, e le capo la fretta che me lo voleva sulle 20, 67 euro, nulla più IVA. Oh. sei arrivato a me. Via. Aspetta. Ok, staccato l'eco. Stavo dicendo che apparecchio è quello che c'ha il tipo l'eco così. Non l'ha trovato lui, io non sono tu i corsi. Io non sono più di fasci. Però prima di essere andato in garage, tanto il pensile pensa agli altri, non a me, pensa agli altri. E se sono i carabinieri che hanno lasciato la porta? No, perché sono i carabinieri, ma guarda, guarda, guarda, guarda, che si sente un po' strano, adesso va arrivato tranquillamente, lo conosco. Sai? Stavo dicendo che a fare il chiuso ti fa quell'eco. Ma guarda, detto cosa che tipo di apparecchio non te lo posso dire altro mega, due. C'è un 1159 euro di ecco. E a tu sei un segreto di Stato che trovo fare che tu, io sono rompere. Che cazzo di macchina che stai usando per fare con le curi? Non penso che sia certi citare con noi. Io ho usato un eco e ne fa l'eco che vuoi, cioè l'eco che ho è quello che è perché l'ho modificato, però no, non è come quello che tu, è molto più professionale la verità, perché è molto più chiaro. Ma io ho detto cose e non so che tipo di scheda ci abbia qua inserita, perché sono 200 ci vado i 100 un verbere di ecco, capito? Trova prolungato il pane. Non so, allora non so neanche io che tipo di verbero te lo posso inserire, sono un coso in un modo che lo posso lasciare mezz'ora che ti dice. Per mezz'ora ti dice. Perché lo ripeto per 150.000 volte. Sì, non hai capito forse, no, cosa voglio dire io. Che parte di apparecchio è che ti dà questa fretta così, barattino, che c'è l'eco dentro. Che marca è? Io magno, il 7, il 900, il 97, il 97 dalla magno. Ah, ecco, il 97 dalla magno. Tipo che vuoi sentire. Non c'è bisogno, ma io ho usato il versato greco e l'eco che ho modificato io è questo. Non bisognamente, no. Lo metto più lento. Mi sono messo i compagni potenziato, forse sono stato ancora più lento. Va bene, l'ho lentato di più, solo che va bene così anche. Però te l'ho chiesto un bel altro. Però se apparecchio quello che è, va veramente bene come ecco, è comprensibile, chiaro, perfetto, se secondo me si sovrappone una parola e sei tranquillo, è quello che conta. Poi se va a te da 5 watt, 150 watt, quello che è, buon per te. Capito? Io sto andando a realizzare un ecco e qua e basta. Altri soldi da spendere non da poi in cose, metti sulla 27, basta quello che c'ho, e basta pure, in effetto, mi compro bistrecche, maglialetti, quello che è, mandilo, mi bevo la birra e la parete se la piglia in culo. Ma te dico una cosa, io non è che abbiamo preso tanto, perché io ce l'ho, questo apparecchio ce l'ho, perché ancora in Italia non l'ho ancora diffuso. Te lo dico chiaro, sincero, bello. Non l'ho ancora diffuso, questo qua. E mi danno sulle 97 watt. Poi ti dico che è un coso, un signore a casa perché poi c'ha dietro il coso, fa un altro attacco. Alfredo, perché dicono le ricette cose, grazie, certe modulazioni, c'è un... tanti sistemi di cose, cazzo, io non so di cosa, ma... c'ha gli stessi canali che c'hai tu. Capisci, a mio, a me, c'ha gli stessi, i canali che c'ho meno... anche se io sono votato un po' troppo, la coppia c'è un blocco, fatto tutto il basso, c'è anche altro per questo, capitolare ti lascio a me in questo momento perché non le possono trovare che mi ascoltano proprio anche io a sono lo stato dove trovarli, purtroppo devo andare io a trovarli, a riportarmeli qua, io a casa, però di fronte al corso, alla... al passato prodotto di produttività. Sono... io avrei voluto conoscere l'amico che si ascolta. Sì, io lo ascolto basso, non c'è problema, Quello io campo con la Gran Prix, quello che non lo so. Dice va che è una parte di stallo e sembra che va di bene. E campo, campo. Ma sempre c'hai quella Gigio, ti ricordi, famoso? No. Sono regalato. Bacchia, mi sono imbarrando tutti i nomi. E chissà chi è che sta tentando di metterti portante, ma comunque. Vabbè, la saluta. Bacchia, io grazie. Voglio più giovani. Ah, è che è intelligente, questo ti faccia ridere. Hai visto il dolore che tu hai detto e non parli, perché non ti voglio parlare. Capito mio? Tanto almeno so che mi ascolti, il segnale che ti arrivo io te lo arrivi qua. Sembrato, arrivito a questo segnale. Thank you. In che sei andato tu, dico di puzza? Beh, la mamma bagasse di Arugio. Stavo dicendo, ho poco fa quando lei Santiago 3 e ti sei abbassato, poi ti sei sollevato a Santiago 9, quante volte ti lavora per quello di apparecchio? La 500 o la 580? Da 0 a 300. Da 0 a 300. E allora ha dato un bulldozer. E lui ha preso un po', ma lui lo schiaccio. Ascolta, ma al basso io no, tu a me non mi tu a me non mi passi perché lo so, guarda adesso per un po', dai un'occhiata, uno, due, tre, viaggia. No, non lo passi, no, tu non passi, non passi, te lo dico io. Allora, come era per un po'? In confronto a me lui passa, ma io da lui no. Io a te ti intendo un po', ti sento chiaro, lui può stare lì a mettere portante quando vuole, però lo schiacci letteralmente, mi arrivi un Santiago di 9 più 30, radio super 5, stereofonica. Ehi, aspetta qui, allora, tu sei Santiago 9 senza antenna, infatti non stai dentro casa, con la magnetica sei 6-9. Santo Greco 6915 Torino e Santiago è quasi 8 quando pompa come adesso, invece quando stacca di lì arriva Santiago 3. Fortezza di Baghetta. Fortezza di Baghetta ho fatto, eh? Io non so perché deve essere così offensivo. Sei tu? Ti ho preso? Ho passato tutta la sera. Ma ascolta, se ti sento preso, ti ero un attimo, però vengo io a trovarti. Ti lasciare che puoi fare brutte figure. No, brutte figure le fai tu, capito? Io sono un tipo tranquillo, capito? Io ho trattato bene con tutti, io... Ma però non mi conosce. Perché le brutte figure non le faccio io, lo metto. Non lo so, vabbè, comunque non c'è problema. Guardate, se mi vuoi conoscere proprio veramente, io domani, venerdì, sabato sono libero. Già ti trovo io, non c'è bisogno che tu trovi a me. Ok. Ma non devi sforzare niente perché so dove trovarti. Ti trovo io tranquillamente, senza problemi, capito? Non è quello il problema, capito? Non è quello che mi preoccupa a me, è quello che mi preoccupano gli altri. Sai come credi, Tony? Io comunque ricordati che non ti ho mai offeso. Segnale ci è passato comunque io ti conosco se tu conosci figlio mio e vado faccio un cigarro adesso mi fumo una bella sigaretta che la ascoltiamo alle che ore sono le 23:42 va bene Antonio. Sì, ok, con io non so che stasera la verità non è che abbia seguito la cosa, però quando sento stasera sembra più un UFO, sembrava la verità. Poi ti sei preso me, metto la fa la verità, questo non lo so. Comunque mi sembra che sia un po' troppo forte, non lo so, stavo lamentando perché siete provaci, perché abbiamo già detto quella una cosa, quell'altro ha detto così, non lo so, vabbè, in quel momento lì magari non capivo niente, capita. No, adesso veramente mi sembrava di chiedermi lo scusa la norma, dirvi che di quelle condizioni, quelli, non lo so, capita anche a me a volte l'avete fatto male, però veramente se ho sbagliato chiedo scusa, a volte un goccio di vino quando ragiona si fa male, è quello che poi si ragiona, il discorso è quello. Non fate di altro, faccio il malattino, l'età per un bicchiere in più, per un bicchiere in meno. Avete la sedia, voi per pigliare il palazzo, cioè per pigliare un bicchiere in più e entrare la barattina artificiale, meglio che il palazzo ci ho potuto non vedere, la verità. Non lo so, io la gioco così, se io ho sbagliato non è niente, che subito scusa, a volte capita, tutti. Se in fretta sei quello che è, e magari ti supererò, toccato, se la biglia il culo. Meglio la susa di domani mattina che avere i soldi che faccio tutte le figure. Scusa un attimo, io non ho paura nessuno, magari. I primi due passaggi magari che hai fatto, sono d'accordo con te. Ma poi sono entrato dal tappo, nessuno mi ascoltava, ho messo la musica, tutti mi ascoltavano, tutta la musica, guarda. Io sono di quel parere, no, tanto non sono affrontato, non sono affrontato. Nessuno, nel cavo, non ascolto, non lo sento. Infatti io dei grossi miei, cioè so che io sono un spingo, e infatti l'ho detto, e se si qualche trovare adesso lo dico qua per quello, perché vuole un numero, Sassari. Assieme e la bella ancora un casino che è stato stasera. se sei d'accordo, poi lo sapevi tu. Antonello? Dimmi. Ehi, non mi ascolti? Sai che ti ascolto, ma non fa bene. Allora Antonello, adesso te ne dico un'altra. Visto che adesso inizi a capire qualcosa, Tonino, no? Allora, domenica scorsa è entrato in radio come stasera e io in frequenza non c'ero. Ascoltami bene lì, Tonino, aprile bene quelle orecchie. È entrato in radio e ha iniziato a insultarmi a me, che io neanche c'ero in radio, Antonio, io in radio non c'ero. Ha iniziato a insultarmi, Bulldozer è un miserabile, è un figlio di puttana. Allora c'è stato due persone che mi hanno telefonato e mi hanno detto ma signora, ma dove sei? Ho detto sono a casa di mia suocera. Guarda che c'è questa persona che ti sta dicendo queste cose in radio. Ho detto ma signora, non è che ci sono, chi è questo qua? Mi ha detto è Tonino da Usini. Adesso voglio capire da Tonino da Usini se è vera questa cosa che tu hai detto, perché c'è anche tanto di registrazione. Confermo io qua, confermo, c'ero la sera. L'ho fatto un amico contato che se l'ho fatto interrompere dalla volpe, cazzo, c'era anche Venano. Parlo con Venano perché non mi stava ascoltando nessuno. La segnale, e mi hanno insultato. Che tu mi hanno corso. E lo sabato mi è arrivata una bassa. Tu la conosci bene anche il tizio? Io non parlo di te, ma lo si piglia. Tu dici una cosa. E una persona ti ha detto come vari. C'era un vulcano. Un vulcano Gigi, un vulcano. Vulcano, cosa, ma io, poi non mi ricordo più niente, ho sentito questo telefonato che mi arrivavano, però, dico una cosa, non c'è bisogno di andare a telefonare, perché se la potessi fare mi conosco. Purtroppo magari non mi conosce, fa 27 a me e non mi conosce, non parla uno magari, ma perché sono 25-26 anni, sono appercorto magari, non mi conosce, però reagisco io alle persone che non mi ascoltano, non è molto che io sto andando sui guasi chiari, che passo l'antenna a te, Bolzano. Forse non ci siamo capiti bene, no? Forse tu gli orecchie non le apri bene quando io parlo. Io non ho cercato a nessuno perché io in radio non c'ero. Hai capito? Io in radio non c'ero. Se tu che sei andato a cercare a me, io in radio non c'ero, hai capito? Senza cercare altre gente, io voglio sapere se è vero che tu hai cercato a me, hai capito? Tu mi devi dire se tu hai cercato a me domenica scorsa. Tu stavi cercando a me in radio, mi hai detto che io ero un miserabile, ecco perché io me l'ho presa con te, hai capito? Perché dopo se ti ricordi bene, io più tardi, poi la sera, sono rimasto fino alle 10:30 ascoltando e non sono più entrato. E tu stavi sempre continuando a offendermi e io ho anche, sono rimasto in ascolto e non ti rispondevo neanche. Tu hai continuato a offendermi. Adesso tu mi devi dire se è vera questa cosa, senza cercare nessuno, né Vulcano né nessuno. Tu mi devi dire o sì o no. Aspetta, non parlarmi del Vulcano. Io ti ho parlato del Vulcano Black. Capito hai? Ecco, io ho capito che stavi cercando Vulcano, eri vulcanizzato, quindi in poche parole, io sono con te, non voglio avere nessun problema, capito? Perché io te neanche ti conosco, hai capito? Quindi se tu hai un bicchiere di vino in più, ci può anche stare, però tu devi cercare la gente che ti cerca in radio, io non c'ero, io non stavo neanche pensando a te, hai capito? Io ero tutta un'altra parte. E basta, io con te non voglio avere nessun tipo di problema, capito? E così che non c'è bisogno di problema, e non c'è bisogno di andare a telefonare di altre persone che non cercano, capito? E forse non mi hai capito tu, Tony. Allora, a me, mi hanno telefonato a me, capito? Mi hanno telefonato che tu stavi dicendo cosa a me, stavi offendendo a me. Mi hanno telefonato, io mi sono seduto in macchina e mi sono messo a ascoltare. Ed è vero, capito? Tu a me mi stavi offendendo, perché io tutta la sera in radio non c'ero. E ti hanno anche registrato, hai capito? Però siccome non c'era bisogno di registrarti, ma c'ero io in radio, ti stavo ascoltando. Dopo, giustamente, che io quando io a te non ti conosco, non ti voglio neanche conoscere, non mi interessa chi sei e chi non sei, hai capito? Però tu, quando vedi, io adesso sto parlando con te, io ti posso rispondere, hai capito? Se tu mi offendi, io ti posso offendere, però ti posso rispondere. Tu devi cercare la gente quando c'è in radio, non quando non c'è il radio, che io a te non ti conosco, tu a me non mi conosci, come fai a offendere la gente? Adesso tu, cioè, renditi conto, come tu mi stavi offendendo quando io a te neanche ti conosco, non ti voglio neanche conoscere. Ma guarda, se vorrei conoscere è un piacere tuo, però siccome io sono sicuro che io ti conosco abbastanza bene, io a te ti conosco, tu lo conosci a me, non è che sono due vie diverse, capito? Non è spero molto. Ma poi io ti conosco. Quello è il bello che io ti conosco, tu almeno conosci a me, capito? E come sono fatto io, là, spiegami, come sono fatto io? Ma come hai fatto, come sono fatto? Io ti vedevo quando facevi le... Con il giaffo di Cretola. Sassari Olbia. Capito, vai, non è che io ti vedevo lì, non lo sapevo. Ti vedevo col tuo... non lo so, la televisione è buttato. Forse mica ti sta confondendo, io non sono autista. Capito, Tony? Io non sono camionista, non sono autista. Quella voluta scavi, capito? Certo. Possibile. Non ascolti. Io già ti ascolto, infatti ti sto dicendo che io non sono camionista. Certo. Sai quante volte ti chiedo scusa? Ecco, adesso io accetto le tue scuse. Certo, mille. Se c'è una possibilità, certo, ci facciamo una batteria. Aspetta. Tony, allora siamo... secoli che so, facciamo così, come per i frittenti, però tutti siamo tenere le mani a posto, siamo delle mani a posto, di qualsiasi cosa. Allora, moglie del freddo, bulldozer, cane preso, fattorine, cosa del genere, ci troviamo tutti quanti viene zitto, ti dico dove abitavo prima io una volta, ci troviamo lì, si beve quello che si deve a bere, nessuno proprio deve fare una parola sbagliata, e vedrai che le cose vanno bene, perché così Massimiliano, una cosa, dimmi quello che vuoi, no? Massimiliano, se uno vuole... aspetto, lui mi sta parlando ancora. Una volta mi hai lasciato a me, tanto tempo fa, non ci ha avuto avanti, se uscite molto, che tutti gli occhi in piedi, se ti ricordi siamo trovati nel ricerchi, però andava lì come quando una volta era mezzo con dovrà picchiare a corso. Chiarite sono i migliori, una volta chiarite non si discute più, senza di tornarci la verità. Quindi decidi tu, decidete voi cosa dovete fare, per me non c'è problema, se volete tornare c'è un caponero che facciamo il venerdì dove c'è la casa dove tu già ti ricordi, già se lo ricordi già lo sa che cosa non è. bulldozer perché lì vicino abitano, cioè c'era proprio un amico suo, quindi è lì vicino. E non vedo problemi. A me no, ci troviamo, se ci abbiamo raccolti di droni ma accettano, di bottiglie di vino, di bottiglie di colpa non c'è, se la abbiamo ancora. Ehi, ciao. Scusami, scusami tanto. Cazzo. Ti dico una cosa, sabato se ti entro per mente, ti faccio una signora, ti diamo la fondamenta. Non c'è problema, no, Tony, quando si sbaglia bisogna ammettere, va? Certo. Guarda, te lo sto dicendo, Massimiliano. Certo. Non problema. Hey. adesso, dove abitavo prima, quindi certissimo di fronte, c'ho proprio la campana, ricordo, qua di fronte, quindi io di fronte, proprio di fronte. A parte dissi, bello anche Usin, quindi poi non dimmi che c'è quel battito che non è possibile. Io sono anche la piccolina della macchina. Tu sei pompando perché si vede che sei pompando. Sono stato con la mantovana dietro dei conti, cosa ti è successo quando mi avevi conti con la gente, quindi. Antonio, c'è ancora una mantova che mi hai dato tu. Sì, no, quella è un'altra cosa, la mantova che ti ho dato io, non fare il furbo. La mantova che ti ho dato io è un'altra cosa, nell'altra con la mantova lì, che non va bene. E poi l'ha pensato l'altra, tu se ti ricordi. No, c'è una mantova che mi hai dato tu. Poi la mantova che stai dicendo tu che io ho venduto a cosa, era la mantova di cosa di mia Maria Mauro, no, ma... La mantova, c'è ancora un'altra mantova 5 che l'ho venduta proprio per la mantova. Facciamo parte di quello che ho fatto, però ancora tra l'altro c'è una cosa. Avevo venduto la mantova di Gian Maria Figaro e la mantova di Mario Ma, l'ho venduta. Capito? No, però tra l'altro mi serve il mollone ce l'ho. Sono a 30 metri di capo, però c'è una cosa, una vivanda che quella serve a me. Quella moto va, quella moto che mi ha piaciuto tutto, non lo scende. E mi piaciuto la vivanda, radio, c'ha 27 radiario. Proprio diciamo tutto che mi va pure la parte che sto usando. Cavalava. Veramente io mi ricordo che stiamo pensando una moto a te. Quello c'era la 1-5 e i radiali erano quelli che erano. Abbiamo dovuto fare dei fori nuovi e avevo messo le vite profilettanti per bloccare i radiali, perché i radiali erano quello che era e basta. Poi mi ricordo che tu avevi trovato l'altra manto, ma non avevo messo, mi sembra non sai la verità. Mi sembrava che c'era qualcun altro, comunque manto me ne hai avuto due, mi sembra, però non so. Lì in giardino, non so se è stato qualche altra cosa, perché noi ci siamo visti un bel tempo fa, ma parecchio tempo fa, quando io salivo a cosa a Usini, le tue limite scendevi anche a Sassi perché volte, ma quando non viene finito adesso sono passati parecchi anni, ma non mi sembra che c'è il successo di Samato con la prestazione di ghia, è capito senza antenna. Perché non è possibile. Quanto lei sto usando ancora una mantola che non abbia fatto via. Una mantola tua. Una mantola tua. Non mi dire quella che ti ho aggiustato io, no, popolari, grazie a Doia. La facevo un anno. L'anno scorso che poi ho trovato la polizia autonoma, ho fatto la polizia a Mantova, sempre quello che mi avevi detto tu, e qui ho ricevuto la Mantova, una Stoniclasso Umbus 20-27 radiali. Sono 25-30, che mi fa proprio a me, per separarti di uso, capito? E poi c'è, mi sembra la 1-5. La 1-5 mi sembra già vedere quando sono. L'ho fatto io. Ma tu non l'hai mai buttato tu. Ma è crescendo un po' due sono le cose. Poi si è comprato l'altra antenna, questo non lo so. Poi avrebbe per fronte la turbo qui a Carbonati, la verità di Ghia. E quando diciamo, avevo già più di 4 giorni ci lamentava di ricordica e un giorno sei entrato che dovevi picchiare, sei salito su a picchiarmi, invece poi ti sei acciappato male perché sei entrato al bar e hai cominciato a invitarmi da bene, ma a far culo a te e mi hai prendere a me e vendere il gas. E questa è la moto faccia, intanto a me quando mi hai invitato, capito? fatto dare voti di contare cose che non sono e tenevo magari gelosia, oppure perché magari non erano contenti del lavoro che facevi tu magari e lavori che come hai fatto a me a piantarmi l'antenna e allora sono trovati male, non so, Antonio, io ho sempre ringraziato delle persone che ho avuto sempre delle cose che mi sono capitate bene, poi le altre persone magari che si è andato male, vado io non posso farci niente, poi delle altre persone che magari si è sbagliato chiedo scusa e magari momenti che perché so di certe cose che io non posso fare. Delle cose che non posso fare che non me lo permettono di farlo, però mi trovo in compagnia lo fai e ti mandano fuori di testa e fai scambio di persone, fai cambio di cose e lo capisci che trovi al punto di fare cose che non devi fare. Vabbè. Dimmi, non ho capito niente. Sì, stiamo ascoltando. Quello è Musci, sì. Ti saluto Antonio che sto andando a allora, le verifiche dei costi. Magari ne parliamo domani, sabato, che sono libero. Va bene? Un buon 7351, a noi che parliamo in diretta e tutti gli ascoltatori ti ascoltano una signora, buonanotte a tutti, ciao Antonio, ci ascolti, bye bye. Sì, ciao Domenica, ci sentiamo là, mi raccomando sabato fate sentire e se vuoi trovarmi mi trovi al solito posto. Ma se mi ricordo, sono lì, lo dici e non c'è problema. Ci devo venire al banco per abitare una volta, così almeno vediamo la faccia degli altri. Come ho fatto bene, dai, dove c'è sempre la mattina al corso, dove c'era lì la piazzale, dove mi trovo sempre? Sì, dove mi trovo sempre, ma si deve zitto, se ti ricordi. Il bar di fronte alla rincorre ci devo lì perché io passo lì e fare tre volte, quindi me lo dice al limite in la barca, io non ti posso dire, dopo pranzo, se fosse arrivato dopo pranzo, quello dice io mi faccio trovare lì e ci devo andare a birra, poi si prende così la birra in culo. Bene, bene, tanto bene, ti ringrazio e mi capita e ti faccio io una bella vita, non ci sono problemi. Ciao Antonio, ti ringrazio e saluto gli belli. Buon 144. Sabato, tutto come. Vai, vai. E ciao Antonio, ci sentiamo alle prossime tappe. A te, ciao. E ciao, buon giorno. Io sto facendo cosa se ne va la vita, mi sono rimasto fino a questo la notte, mi sono addormentato presto oggi a quest'ora. Cosa hai dato? Mi sono andato il taglio a confermo. Oh, c'ha la 5 lui, la volta fa 5 c'ha. Io l'ho fatto una volta tanto tempo fa, tipo negli anni 90, 90 no, no, 2001 forse ancora c'è. C'ha la prima la mano, ma la seconda mano, allora siccome ce l'ha messo, io non si è trovato il coso di radiale, no, ce l'ha messo per trovare le vettine, allora sono 5 vite a tofilettanti nel radiale. cioè, i campi, come ricordo male. E sto uscendo con quella malta, ma è stata nel giardino, accanto a una pianta, non mi ricordo di pianta di che, pianta di cosa era. Per cui c'era la casa, poi c'era il giardinetto lì, di là sotto, e c'è un paletto, capite, pensando. E già mi ricordo, quel radiale lì, mi avevi invitato a mettere, l'avevo messo a posto io. Dai che non te la metti più tu. Che ti parla della matova 5, era meglio la matova 2, lì. La matova 2 poi ce l'ho ancora io, quella lì. La mia ce l'ho ancora io, ce l'ho... Io ho messo la sellina sopra, quelle... Se no, addirittura c'era la salina, quelle cose. C'era tutte le quelle stelle, per le... Anche le cose, ho visto io... quello che fanno la cosa, la banca, la carica. C'eravamo in tre con la stella pericolosa, antistatica. Quindi, no, l'antenna mia, la turba è, come vedete, c'è una cosa, 1-1 o meno ne va, anche un 4 radiali per trattarsi di accento storico. Quindi è perfetta la mia, adesso la devo, siamo sempre, questi giorni qua, la pulisco bene con la rimetto con la fine con la insaponata e la è nuova, il passo lo spray è a posto. Beh, la tieni la luce da un po' garito, beh, un po' buona snoccia, esce il microfono, perché se no io che rimango a Campico di Mosca, si dice. La buonanotte dai a tutti, anche all'ascoltore, ciao Pompo. Via, ciao, adesso ci sentiamo là, al limite un'altra volta. Allora, buon tutto, buonanotte, buon lavoro e a sentirci.